America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Knicks have beaten the Wizards 7 straight times. Nobody stopping Jeremy Lin on that play. Un incontro di pallacanestro dei Knicks recentissimo, il nuovo simbolo è Jeremy Lin, ne abbiamo parlato, l'idolo cinese che ha riportato i Knicks in straordinario vantaggio grazie a una serie di vittorie che hanno poi avuto anche un impatto politico nelle relazioni fra Cina e Stati Uniti. Ecco, questo invece è un incontro di hockey sul ghiaccio, è uno dei grandi sport americani, nordamericani, i New York Rangers. I New York Rangers sono come i Knicks, una delle squadre nel cuore dei newyorkesi, hanno vinto dei campionati, trionfano quando c'è la stagione, i giocatori di hockey restano un mito. Ricorderete Love Story, questo giovane di buona famiglia che è un campione di hockey, uno sport considerato nobile, si va al college sia con le borse di studio, insomma grande, grande sport. Now here comes Joe Frazier. Joe Frazier will be here any minute. He's coming out. Listen to the roar of this crowd. I want to tell you this is going to be a spectacular evening. The tension and the excitement here is monumental. Qui siamo entrati, non so quanti di voi avranno capito o riconosciuto, ma siamo entrati nella storia. Il match è stato chiamato il match del secolo, l'8 marzo del 1971, Muhammad Ali contro Frazier. È stato il match per il titolo mondiale dei pesi massimi e Muhammad Ali è stato sconfitto da Frazier, è stata la prima sconfitta professionale di Muhammad Ali, che era apparso sul ring con questo suo meraviglioso accappatoio rosso con dei risvolti bianchi. Canzone mitica, Simon & Garfunkel, grande, grande, grande performance live, The Boxer, una canzone di nuovo degli anni 70, che devo dire è nel cuore, immagino, di molti di voi ascoltatori, sicuramente è una canzone che è nel mio cuore. Ecco, qual è, domanda da un milione di dollari, qual è l'elemento comune di questi quattro diversi momenti di New York, americani, mondiali addirittura, che vi ho raccontato? L'elemento comune è il Madison Square Garden, questo simbolo a New York dove si è fatta storia dello sport, storia dello spettacolo, storia politica. C'è stata la nomination di George W. Bush, quindi vi dicevo anche la politica. Questo Madison Square Garden non è soltanto un simbolo di New York, un feature di New York, un simbolo americano e un simbolo mondiale. Ecco, qual è la notizia possibile? La notizia di cui si sta discutendo e che sta scatenando polemiche di ogni genere in città. Beh, è possibile che si possa demolire il Madison Square Garden per creare una stazione, per creare la nuova Penn Station. Dove andrà il Madison Square Garden? Beh, una delle idee è di spostarlo più a ovest, vicino al centro dei convegni, il Javits Center, dove sono sicuro che migliaia di uomini d'affari che magari ci ascoltano, artisti, pubblicitari, creatori di moda, insomma una gran quantità di persone sono venute qua a New York, proprio al Javits Center, a vendere, a comprare in alcune delle fiere più grandi, più importanti del mondo. Ma c'è qualcosa di più, possibile addirittura che si sposti lo stesso Javits Center, insomma è possibile una rivoluzione urbanistica a New York. Il New York Times se ne è occupato in prima pagina, c'è un grande dibattito in seno all'amministrazione comunale, il sindaco Bloomberg è schierato in prima fila, il governatore Andrew Cuomo vuole lasciare un'impronta sullo Stato e sulla città ed è lui che spinge perché il Javits Center sia spostato da un'altra parte. Ma la demolizione del Madison Square Garden, che è all'origine poi di tutto questo processo, resta naturalmente uno degli aspetti centrali. Ricordiamoci di una cosa, che questa città non ha monumenti sacri, si distrugge, si ricostruisce, purtroppo dico si distrugge perché sono distrutte delle cose molto belle. E devo dire che il Madison Square Garden è in una straordinaria posizione logistica, però è bruttarello, soffoca soprattutto la Pennsylvania Station, detta Penn Station, dove nei sotterranei si incrociano le linee della metropolitana, di varie linee della metropolitana, treni per centinaia di destinazioni, gli Amtrak per il sud-ovest e appunto verso la Pennsylvania e Washington. La strada dalla Pennsylvania Station. Sembrava attraversasse il continente, come se non tornasse più all'indietro, ma andasse sempre avanti ad occidente, fra tombe in ferro vetro, pianura, pali e gente. L'avrete sentita, spero, 100 Pennsylvania Station, 100 Pennsylvania Station, grande canzone nostalgica di Francesco Guccini, con tutte le nostalgie del caso, vecchi amori, ideali del 63, ecologia lassù nel Maine, insomma una canzone sempre struggente che guarda ad occidente, a pali e gente, e dunque un po' il grande sogno della ferrovia americana che ha aperto nuove frontiere. Dunque torniamo al punto, è possibile la demolizione del Madison Square Garden? Attenzione, nessuna decisione è stata presa, però uno può dire, ma perché non distruggerlo? In fondo, pensate, dove ora sorge il Madison Square Garden, c'era appunto la Pennsylvania Station, che era uno straordinario monumento architettonico neoclassico di McKean, Madden, White, che era forse la più importante casa di architetti a New York, una delle più importanti case di architetti americani. Ci sono stati anche libri, video su questa Pennsylvania Station. Ebbene, questa stazione fu distrutta nel 1963, non nel 1800, per far posto appunto al Madison Square Garden. Lo stesso Madison Square Garden, peraltro, era a Madison Square, che per intenderci è quella piazza dove oggi si affaccia Italy. Insomma, è un po' come se da noi si decidesse, che posso dire, di demolire a Milano la stazione centrale per poi costruirci sopra un palasport. Voglio dire, immaginate lo scandalo. E lo scandalo ci fu anche a New York. Il New York Times lo chiamò vandalismo architettonico. La costruzione in effetti era monumentale, era bellissima, dico la Pennsylvania Station appunto, era ancorata nei trionfi di fine secolo scorso, nella Gilded Age, nel Coming of Age, nella imminente maturità globale dell'eccezionalismo americano, insomma era un simbolo davvero, davvero importante, eppure distrutta perché costava troppo mantenerla, perché ripararla sarebbe stato complicato, buttiamo via e ricostruiamo. Veniamo però al progetto, perché il progetto è piuttosto interessante. L'idea è di spostare comunque l'ingresso di Penn Station nell'ufficio postale che è dall'altra parte dell'Ottava Avenue ed è un altro monumento architettonico di McKean, Madden, White, sicuramente qualcuno l'avrà visto, esattamente davanti al Madison Square Garden. Le poste a loro volta saranno spostate da un'altra parte. Ecco, a questo punto dico, inevitabile chiedersi dove siano i nostri progetti urbanistici. Se c'è una lezione che si deve imparare da New York è che quando si decide si fanno dei progetti di straordinaria qualità. Prendiamo il World Financial Center, per esempio, a questo spettacolare lungo fiume, il porticciolo dove ci sono barche a vela, l'auditorium, un mix di case residenziali, scuole, grattacieli. E dunque è vero che si distruggono in America, a New York, anche monumenti come la vecchia Penn Station, però non si perde mai di vista la possibilità di rimediare. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di Madison Square Garden, grandi concerti dei Rolling Stones, una delle loro grandi canzoni appunto suonata al Madison Square Garden. I can get no satisfaction. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani, goodbye and get going. America 24.